11. Panata. Questa minestra con cui si solennizza in Romagna la Pasqua d'uovo, eccola chiamata tridura, parola della quale si è perduto in Toscana il significato, ma che era in uso al principio del secolo XIV, come apparisce da un'antica pergamena in cui si accenna a una funzione di riconoscimento di patronato che consisteva nell'inviare ogni anno alla casa dei frati di Settimo, posta in Cafaggiolo, Firenze, un catino nuovo di legno pieno di tridura, sopra al medesimo alcune verghe di legno per sostenere 10 libbre di carne di porco guarnita dall'oro. Tutto si invecchia e si trasforma nel mondo, anche le lingue e le parole, non però gli elementi di cui le cose si compongono, i quali per questa minestra sono pane del giorno avanti, grattato, non pestato, grammi 130, uova numero 4, cacio parmigiano, grammi 50, odore di noce moscata, sale un pizzico. Prendete una cazzaruola larga e formate in essa un composto non tanto sodo con gli ingredienti suddetti, aggiungendo del pan grattato se occorre. Stemperatelo con brodo caldo, ma non bollente, e lasciatene addietro alquanto per aggiungerlo dopo. Cuocetelo con brace all'ingiro, poco punto fuoco sotto, e con un mestolo, mentre entra in bollore, cercate di radunarlo nel mezzo, scostandolo dalle pareti del vaso, senza scomporlo. Quando lo vedrete assodato, versatelo nella zuppiera e servitelo. Questa dose può bastare per 6 persone. Se la panata è venuta bene, la vedrete tutta in grappoli, col suo brodo chiaro all'intorno. Piacendovi mista con erbe o con piselli, cuocerete queste cose a parte e le mescolerete nel composto prima di scioglierlo col brodo.